questa non è certamente una trasmissione come quelle di tutti i giorni. Lavoreremo in diretta per fornirvi più notizie possibili, più immagini che state vedendo possibili su questa tragedia che ha colpito l'Abruzzo. Primo collegamento con l'Aquila, per noi c'è Daniela Sene, ma qui dov'è? Delle camere, il centro storico è stato duramente colpito.